Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a, such a good friend to me. Know that I love you so high. I'll pay you. Hallelujah. I got faith. Russia Gate, un colpo a Trump. L'ex consigliere per la sicurezza guidato dalla Casa Bianca e tutto il caos americano. Corriere della Sera, titolo principale: Russia Gate o Russia Gate, Trump ora trema. La Repubblica, anche qua l'ex consigliere alla sicurezza Flynn ammette le bugie all'FBI ed è pronto a testimoniare. Kushner, il genero del presidente, avrebbe autorizzato i contatti con gli uomini di Putin. Questa, appunto, la Repubblica. Titolo gemello è anche il Manifesto. Titola su questo: segreti e bugie, con la foto di Trump che fa un bel pollice col suo sorriso. Però insomma, qualcosa non sta andando nella direzione giusta in questo momento alla Casa Bianca. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. E questi sono i titoli principali sulla Russia Gate. Hai detto giustamente Russia Gate. No, ma non lo so, in realtà essendo un'unione di due parole, non lo so come bisogna leggerlo, perché gate non è una parola italiana, però insomma, forse Russia Gate è un po' troppo. Però l'attenzione di molti lettori sui giornali di oggi si concentra su questa foto che non avremmo voluto, cioè che avremmo voluto vedere, ma avremmo voluto vedere titolata in maniera diversa. Ci sono Putin, Maradona e Pelé abbracciati durante il sorteggio in Russia, definiti gli otto gironi, sul Corriere, il mondiale senza azzurri, mestizia. Ammetto che anch'io ieri, nel momento in cui ho visto il tabellone, come erano i gironi, è il vero momento in cui ti rendi conto e dici: ma veramente non ci saremo? No, ma non è possibile. Ti aspettavi qualcosa da film che improvvisamente dicevano: ma no, dai, ovviamente l'Italia ha un permesso speciale. Abbiamo comunque scherzato. Invece su Repubblica, come dicevo prima, Russia Gate, però la foto molto grande. Dice: da San Babila a Quarto Giaro, l'onda nera che vuole prendersi Milano. È un'inchiesta, poi a pagina 6 e 7, appunto, sui gruppi fascisti, neofascisti milanesi, appunto, non solo della periferia, perché ricordiamo San Babila in pieno centro. E poi c'è una notizia sempre sul Corriere che ci tiene con il fiato sospeso, riguarda l'Ilva, veti e ricorsi, il destino in bilico dell'Ilva. I sindacati dicono la fabbrica continui a vivere, i ricorsi alla giustizia amministrativa e il futuro dell'Ilva di Taranto è sempre più incerto. I sindacati in presidio sotto la regione, la sede della regione Puglia, ripetono che il lavoro non si tocca e chiedono che il governatore Emiliano ritiri il ricorso presentato al TAR. Tutto nasce infatti con questo ricorso contro il decreto del governo sullo stabilimento dell'Ilva, che ha portato al congelamento del tavolo delle trattative, che ha chiesto il ministro Calenda, che ha detto: non possiamo continuare a trattare con ArcelorMittal se c'è questo ricorso pendente. E quindi questa è la situazione in bilico dell'Ilva. Che altro? Invece sul Fatto Quotidiano, gli Stati Uniti non ci sono minimamente, quello Trump, c'è solamente cose italiane, di nuovo crack Etruria, le balle del PD del PM Rossi, ma il titolo in grosso è: Consip, la vendetta di Del 7, vietata la medaglia d'oro al NOE, ovvero negato il riconoscimento proposto dal ministro Galletti. E poi sulle banche, Repubblica: Etruria spunta un verbale sulla trattativa con Vicenza, Banca Italia non era contro. E questo è il dossier banche. Poi una notizia che può essere considerata una buona notizia è il titolo principale di Avvenire, tutta pagina, foto del Papa chiamati per nome. Il Papa ai Rohingya, perdono per chi vi umilia. In riferimento al viaggio del Papa in Bangladesh, l'incontro con i Rohingya, e per la prima volta il Papa li ha nominati, perché in Birmania non è potuto accadere, paese da cui vengono espulsi, e invece è potuto accadere in Bangladesh, paese che li accoglie. A Dhaka Francesco cita esplicitamente la minoranza: malgrado i divieti, in voi la presenza di Dio. E poi c'è l'appello ai leader religiosi: no all'odio. Andiamo a sentire che cosa si aspettano però gli ascoltatori, i lettori. Il giornale che vorrebbero. Il giornale che vorrebbero. Deborah Di Rani, sentiamo, vai. Ciao Carlo, ciao Alessio, qua è tutto pronto per la nostra rassegna stampa On The Road. Qual è stata la notizia di questa settimana che l'ha colpita di più? Il problema del paese questa settimana sono diventate le fake news, e non frega nulla a nessuno dei giovani che sono costretti a emigrare all'estero, le imprese che chiudono e la gente che va a rovistare nei cassonetti per mangiare. Che notizie dovrebbe contenere il giornale ideale? Notizie serie. Politica molto chiara, un po' più ristretta, poi tutte le notizie praticamente, fatti diciamo da novella 2000 anche meno. Questa settimana c'è stata una notizia che l'ha colpita di più? Beh, mi è interessata da ieri, che è uscita quelle delle banche, perché mi dà molto fastidio che dei piccoli risparmiatori non possono più avere i loro soldi. Non saprei, perché ormai non mi sconvolge più niente, ne dico la verità. Ormai non ce ne facciamo caso più di niente. Ormai è normale l'amministrazione dappertutto. Sto cercando di evitare il giornale. Perché? Perché sì, è troppo casino. E allora, avete sentito, le fake news non ci interessano, tutto il dibattito sulle fake news, e invece vogliono ancora notizie sulle banche, sulla questione delle banche, perché chiaramente si sa, c'è il risparmio, no? Certo. Tocca il proprio, sì, interesse. È la risposta più incredibile, mi sembra. Sto cercando di evitare i giornali perché ci sono delle notizie terribili, e mi sembra un po' folle, perché non è evitando i giornali che le notizie diventano belle, è forse informandosi sui giornali, su internet, dove volete, in radio, in televisione, e poi cercando di fare qualcosa, nel senso che evitare i giornali non serve veramente a niente. Eh no, hai ragione, è vero, è proprio vero. Allora, cioè, però... a meno che uno non dica evito quel tipo di giornale, perché allora ci starebbe, ci mancherebbe altro, ovviamente. Invece altri volevo titoli. Dire, su Corriere della Sera, sì, c'è il proseguo di questa inchiesta del Censis sugli italiani e su che cosa vogliono gli italiani, ed è interessante che al primo posto c'è il posto fisso, ovviamente, ma al secondo posto ci sono i social, che battono il desiderio di avere la casa di proprietà, e questo è assolutamente una new entry, si direbbe, per usare una parolaccia inglese, perché che i social, per il 28% la cosa più importante siano i social, avere l'accesso ai social, e quindi non risparmiare per comprarsi la casa, mi sembra indicativo dei tempi che corrono. Cioè, è una cosa incredibile, tu dici, sembra quasi una follia, no? Uno dice, ma come, invece di preoccuparti di costruirti una casa, ti preoccupi di avere l'accesso ai social. Però potrebbe anche essere una distrazione, no? Una distrazione da un'ossessione, che è quella della casa, dell'acquisto, sì, della prima casa, e invece una voglia di socializzare, sì, no? Ma soprattutto una necessità, perché poi diciamo social, e magari qualcuno pensa che sia per scrivere stupidate su Twitter, ma social vuol dire appunto l'accesso alla rete, in realtà, e vuol dire anche Facebook, anche LinkedIn, anche cercare lavoro ormai, certo, passa da lì, quindi in realtà è un po' più serio, non è una stupidata, ecco. A proposito del rifiuto degli italiani rispetto alle notizie di politica che sentivamo nella rassegna stampa on the road di Deborah Di Rani, il Libero ha un titolo ad hoc su questo, perché titola così: 84 italiani su 100 schifano la politica, partiti da buttare, sottotitolo rapporto Censis, è lo stesso che stavi leggendo tu, 2 italiani su 3 convinti che i cittadini non contino, bocciati governo e Parlamento, gli elettori si consolano con 45 milioni di voti per il Grande Fratello. E qui c'è un attimo. Attendiamo un titolo di Libero su quanti italiani su 100 schifino Libero. Ecco, poi c'è il fondo di Vittorio Feltri, che dice: alle elezioni l'astensione supererà il 50%, quasi un vaticinio quasi una profezia. Speriamo che non sia così, però speriamo assolutamente che non sia così. E a soprattutto dire schifo la politica è un po' come quello che abbiamo sentito prima, che la signora che diceva sto cercando di evitare i giornali, nel senso che schifare la politica non serve a niente, nel senso che la politica ci riguarda per forza. È inutile dire no, a me non mi interessa quella roba lì, perché è la politica che si interessa a noi. E a proposito di politica, notizia per gli appassionati di politica politichese, soprattutto a sinistra, ce l'ha il Corriere della Sera, a pagina 15, la sinistra in piazza con la CGIL e domani in corona grasso. Quindi finirà forse questo valzer di incoronamenti, perché c'è l'assemblea di MDP, Sinistra Italiana Possibile. Sul nome della Cosa Rossa non c'è ancora intesa, ma insomma Pietro Grasso dovrebbe esserne incoronato il leader domani. E poi ancora Sport, Gazzetta dello Sport, a Higuain spacca Napoli. Questo è un bel titolo, potrebbe quasi essere un super titolo. Vai, dedichiamole ad Honorem, super titolo su Gazzetta dello Sport. Il Pepita gioca e segna il gol decisivo per la Juve, 1-0, lo saprete se avete visto la partita ieri sera. Non so, sono silenzioso perché mi spiace per il Napoli. Lo so, nessuno se l'aspettava una cosa così, però è accaduta. C'era chi sperava in un pareggio così, e invece è andata così. Soprattutto gli interisti speravano, anche i romanisti. Dipende cosa succederà stasera per vedere se la classifica sarà ancora più. Ma dobbiamo giocare oggi, è sabato. Giusto, 800 24 00 24. Intanto vi anticipiamo che parleremo della protesta dei ricercatori italiani, in particolare di quelli del CNR, perché in finanziaria, nella, si chiama adesso manovra di bilancio, mancano i fondi per stabilizzare. Ma non avevamo dubbi che fosse così, ahimè. SIG si dice nei fumetti, SIG, e i ricercatori, sono 10.000 ricercatori pubblici precari in Italia. La manovra di bilancio stanzia fondi per stabilizzarne 200. Non bisogna essere degli scienziati per capire che più o meno 9.800 resteranno fuori. È sempre questo, si individua bene qual è il problema è che la ricerca italiana non è finanziata abbastanza, e però poi chissà perché al momento in cui si dovrebbe fare qualcosa non si fa. E quindi vi chiediamo storie di ricerca. Ricercatori, chiamate 800 24, record di precariato 6-7-8 anni, storie di precariato anche nel mondo della cultura, tutto quello che volete. E poi il gioco, però, perché certo. È uscita questa come la vogliamo definire, una classifica, no, un sondaggio, un'inchiesta sul fatto che gli italiani non fanno più figli. È se già da un bel per, po' un bel po' all'inizio, esatto, della settimana, e niente, così è da un bel po', ma però continua a calare, nel senso che mi ricordo che 10 anni fa si parlava di 1,46 figli, si facevano anche un sacco di battute perché uno diceva cosa vuol dire lo 0,46 di un figlio, e adesso, se non ricordo male, siamo a 1,30, 1,24, insomma, continua a crollare. E quindi vi chiediamo storie di famiglie numerose, cioè, abbiamo bisogno, perché il proprio vero modo per aver voglia probabilmente di aver figli è sentire le storie quando uno dice ma noi eravamo in 7, noi eravamo in 12, noi eravamo in 44. Parto io, che essendo il terzo di 5 figli, ho una posizione peggiore. Di solito dico, se mi passa una parolaccia, dico che sono lo stronzo in mezzo, perché è la posizione peggiore su 5 esseri in mezzo, perché ci sono quelli più grandi che sono più grandi e non puoi fare niente, quelli più piccoli che non li puoi toccare perché loro poverini sono più piccoli, quindi fai da parafulmine per tutti. Quindi, cari ascoltatori che appartenete a famiglie numerose, o anche che ne conoscete, motivateci, abbiamo bisogno che ci motiviate. Quindi 800 24 00 24. Ci possono essere anche dei vantaggi a vivere in una famiglia numerosa. Certo. Non lo so, ma la fila al bagno. La fila al bagno. Pensa ai vestiti che si riciclano, no? Oppure quando i bambini crescono, la mamma può essere aiutata nel fare le faccende da tutti questi bambini, 7, 8, 9, 10. Certo. Chi stira? Chi fa i vetri? Chi fa i tappeti? Io stiravo poco, ammetto. 800 24 00 24. Torniamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Rockin' Minniti, stop all'ultradestra. Questo è il titolo principale del secolo XIX. Il ministro a Genova: non c'è spazio per chi vuole imporsi con la violenza. E il riferimento è naturalmente all'irruzione di questi skinhead che nel centro Arci di Como, che poi ha fatto dividere anche la politica. Salvini che ha detto sono quattro ragazzi, Renzi che ha detto inammissibile, e il ministro Minniti dà questo titolo dal suo intervento di Genova: stop all'ultradestra, non c'è spazio per chi vuole imporsi con la violenza. E invece sempre sul Corriere, all'interno del Corriere, a pagina 17, c'è un trafiletto che parla della questione Sgarbi, che è diventato assessore, ma non potrà, anzi non è che non potrà, non andrà e diserterà la prima riunione della giunta regionale siciliana. È una cosa che non era mai successa. Nel Musumeci ha aperto i lavori e qualcuno fra i presenti si domandava: ma Vittorio è già in polemica con il presidente? Sgarbi invece ha derubricato la questione a polemica giornalistica, salvo poi ammettere: io ho una struttura di vita complicata, ma cercherò di essere il più presente possibile. Se è così complicata, forse uno non può fare l'assessore. Che poi sarebbe da fare l'elenco delle città in cui Sgarbi è stato assessore in Italia, per o anche semplicemente fare la classifica, dare il numero, il totale. Sgarbi, se ci sta ascoltando, qualcuno glielo chiede, quante volte lui stesso è in grado di dire quante volte è stato assessore? Perché secondo me saranno 25, 27, 28, 30 volte. Buona notizia, buona notizia. Oggi siamo un po' deboli sulle buone notizie, ma tra poco recuperiamo. Certo, dal secolo XIX gli incentivi del comune per la bici e gli scooter elettrici, dal comune incentivi fino a 1.000 euro. I fondi disponibili per ora sono solo, dice il secolo XIX, però averne 227.000 euro. Contributi per l'acquisto di due ruote ecologiche. L'assessore che dice: l'ambiente si difende anche così. Bravo. Io invece ho una, non è una buona notizia, però è quella cosa che a volte a noi italiani ci fa ben sperare, ovvero è quasi malcomune mezzo gaudio. Non so se vi ricordate di Dijsselbloem, quello che diceva che noi italiani sperperavamo e aumentavamo il debito pubblico per consentire come ai no, cittadini di spendere tutto in donne e alcol. Beh, lui che non è stato votato, quindi non è più ministro, quindi non è più all'Europarlamento, ma è arrivata una consulenza che, guarda caso, è proprio di 14.500 euro al mese, di modo che lui possa avere lo stipendio come se lo fosse e rimanere a Bruxelles. E questa era una notizia. Non è una buona notizia, notizia perché a me non piace questa cosa. Esatto, poteva, forse è la notizia da urlo. Adesso andiamo a sentire, però tiriamoci sul morale, vai, sentiamo questa volta Marco Boschini, Comuni Virtuosi, dove ci porta il comune ribelle della settimana, qual è la rivolta delle buone pratiche. Sentiamo. Ciao Carlo, il comune ribelle della settimana è Scanzo Rosciate, in provincia di Bergamo. Qui l'amministrazione guidata dal sindaco Davide Casati ha avviato il progetto Il pane della nostra terra. Grazie alla collaborazione tra il comune e l'istituto comprensivo è stato possibile studiare un progetto innovativo che coinvolge la condotta slow food del territorio, la ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica e l'associazione panificatori artigiani del territorio. Destinatari dell'iniziativa sono i bambini iscritti al servizio di mensa scolastica. I protagonisti del progetto hanno fatto due conti: l'80% del quantitativo di grano consumato in Italia viene dall'estero, quindi si è pensato di introdurre un prodotto da filiera produttiva locale, la coltivazione, la distribuzione, la lavorazione delle farine, la produzione e il consumo del pane sul territorio. L'obiettivo del progetto è molto chiaro: promuovere un consumo consapevole di materie prime e prodotti fatti di qualità, e fare educazione e cultura, incentivare le piccole e medie imprese della provincia e promuovere così una cultura del grano. Il pane della nostra terra verrà distribuito nelle mense delle tre scuole di Scanzo Rosciate a partire dal 7 dicembre. Ah, a parte il nome di questo paese di Bergamo, Scanzo Rosciate, che bellissimo. È bellissimo, il pane della nostra terra fatto con grano locale, avete sentito l'iniziativa. Tra l'altro noi sul grano domani abbiamo una storia incredibile, un ragazzo italiano che ha inventato un grano duro che resiste alle altissime temperature, buono per l'Africa e potrebbe essere una ricetta contro la fame nel mondo. Bellissimo. Questo è un inventore straordinario. Domani però. Domani ci facciamo anche la focaccia, speriamo, con questo grano. A comunque, fine puntata. Ah no, abbiamo l'ascoltatore. Abbiamo l'ascoltatore Massimo da Roma? Sì. Ce l'abbiamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sono Massimo da Roma. Sei venuto a motivarci? a motivare tutti? Assolutamente sì, la mia testimonianza. Io sono il quinto di 11 fratelli. Vabbè, hai già vinto, quinto di 11. Il sesto era ancora, era proprio raddoppiava la mia posizione, essendo io 3 su 5. Però accettiamo anche quinto su 11. Quinto su 11, la mia testimonianza è bellissima, una famiglia felice, veramente tutti insieme, uniti. Mamma e papà li ricordo sempre come grandi lavoratori. Hanno speso la te credo, te credo, con 11 figli. Investendo tutto nello studio, hanno voluto che tutti studiassimo. Sono riusciti a farvi studiare tutti? Tutti quanti. Ma scusa, ma che lavoro facevano i tuoi genitori? Erano due banchieri? Mio padre era cameriere, mia madre era casalinga e mamma. Complimenti. E voi 11, quanti figli avete? Guarda, e poi tutti quanti noi abbiamo fatto non 11 figli, ma chi 2, chi 3, chi 4. Insomma, cioè, solo voi a una trentina, quarantina arrivate. Solo voi praticamente tenete sulla media Istat. Mia madre ha 34 nipoti, abbiamo una media di natalità di 1,57 figli l'anno. L'anno? Vabbè. Scusa, Massimo, posso chiederti quanti anni hai per capire? Io ho 58 anni, sono felicissimo, questo ricordo del infanzia stupendo, veramente una testimonianza, padre figli. Senti, ma a Natale dove vi trovate? Mi chiede giustamente Carmelo Laricella, al palazzetto dello sport. Tutti da mamma, papà non c'è più, tutti da mamma, ci raccogliamo veramente. C'ha la casa grande mamma? Sì, mamma c'ha la casa grande. Ma che bella mamma. Come si chiama mamma? Mamma si chiama Angela, è un angelo veramente. Angela, un abbraccio enorme da tutti noi, Massimo. Grazie mille, veramente. Giornata. Grazie. Cioè, fate solo, figli! Solo che bello dire così, fate figli in generico. GR. Fate l'amore. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ok. Woo! I wanna try to make her move, but everything feels wrong. I want to find she's always trying to make me know she's strong. She leaves a plastic case and all the steaming dress she buys. She bids you go by here and you look fine, you look fine. Okay. Oh, allora, c'è una notizia di questa settimana che viene da Bologna che è un, diciamo, non si può fare meglio, si potrebbe fare meglio, perché il comune, il sindaco ha utilizzato il DASPO contro alcuni senza dimora, alcuni senza tetto, alcuni homeless che dormivano sotto un portico in Viale Masini. 10 di loro sono stati allontanati col DASPO. È sempre un momento terribile quando le autorità, la polizia vanno a scacciare i barboni che dormono sotto i portici. Sembra una resa, no? Come si fa ad arrivare a dare il DASPO ai senza dimora? Purtroppo queste persone infastidivano gli abitanti di quella strada, evidentemente, perché intralciavano il passaggio. Il comune ha utilizzato il DASPO. Fatto sta che qualche giorno più tardi l'associazione Piazza Grande, che opera a Bologna, ha organizzato una manifestazione con tanto di coperte per dare un segnale agli homeless: guardate che non siamo tutti così ostili, e comunque rimaniamo accoglienti. Dal DASPO al DISPO l'hanno messa così. È davvero una notizia che ci ha colpito, perché insomma, caro comune di Bologna, DISPO come disponibilità, trova un'altra soluzione, prendili e portali tutti in qualche dormitorio pubblico. Però il DASPO al senza dimora sembra veramente un momento di non ritorno, una resa, insomma, non ci è piaciuto. Si può fare meglio, dai, impegnatevi. E invece non si può fare pieno, arriva da Cislago al comune, dove hanno bisogno di addobbi per l'albero di Natale. L'assessore Marza Campanella, che è a caccia di addobbi, si è fatto una domanda, ha detto: come facciamo a spendere poco? E quindi scrive su Facebook: apro ufficialmente la raccolta raccolta di palline natalizie usate, un che serviranno questo per arricchire il nostro albero di Natale che verrà installato in piazza. Se qualcuno ha qualche pallina o addobbo che non usa più e gradirebbe sostenere la lotta allo spreco partecipando alla raccolta, può contattarmi o portare il proprio addobbo usato in comune al primo piano. È un genio questo assessore qua, fatelo, cioè, tutti i comuni, perché poi tutti abbiamo a casa la pallina mezza sbertucciata, il filino, sì, striminzito, ma dici, vabbè, tra l'altro lo ricompro. Se posso dire, non è solo questo, perché qualcuno potrebbe dire ma dopo allora l'albero della città sarà fatto di palline brutte. In realtà secondo me è straordinario, perché sarà fatto di palline di tutti, quindi è il vero momento in cui un paese si riconosce comunità e quindi ognuno ha messo un pezzetto dell'albero di Natale. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo per giocare con noi, visto che l'Istat ci ha ricordato che siamo un paese che non fa figli, la media dei figli nelle famiglie italiane, delle donne italiane, è tra le più basse in Europa. Allora e noi, visto che non possiamo obbligarvi a fare l'amore venendo a casa vostra e farvi vedere come si fa, però se volete farlo va bene lo stesso, vi vogliamo motivatori, voi che appartenete a famiglie numerose, tre figli, da tre figli in su, io direi minimo tre, ma 4, 5, 7, fino a 11. Siamo 11, però al, siamo momento, 11. Al momento la telefonata più numerosa è stata da 11 più 34 nipoti. I vantaggi della vita di gruppo, della famiglia numerosa, all'800 24 00 24. E poi storie di ricerca, perché tra poco parliamo della protesta dei ricercatori del CNR. Ricercatori italiani stanno protestando in queste ore perché, insomma, si aspettavano qualcosa di più dalla manovra di bilancio. Di la verità, tutti si aspettano sempre qualcosa di meglio, di più. I soldi sono quelli che sono. In questo caso il dislivello è ampio. C'è una montagna che per scalarla si è cominciato a fare tipo un gradino di 2 centimetri. Questa è un po' la sensazione. E soprattutto c'è una promessa fatta dicendo: ho fatto una promessa, però se nessuno mette i soldi sul tavolo poi diventa difficile. Se secondo dice: io vi faccio la promessa, ma i soldi dovete trovarli da soli. La promessa è il decreto Madia sulla stabilizzazione dei ricercatori, esatto, pubblici, 2600 su 10.000, ma alla prova dei fatti nella manovra di bilancio i soldi sono pochi, 10 milioni sufficienti a stabilizzare quest'anno 200 precari. Noi ne parliamo con un ricercatore del CNR che in questo momento sono quelli col sul piede di guerra, Luca Mauro. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Luca è tecnico di progettazione meccanica e navale presso il CNR Marine Technology Research Institute. Ho detto bene? Sì, l'INSEAN, anche detto l'INSEAN, la vasca navale. Ecco, l'INSEAN è coordinatore del gruppo, tra l'altro, Precari Uniti del CNR, che è anche un hashtag, un account Twitter, quindi siete attivi anche sui social. Se qualcuno si vuole informare rapidamente su questa vicenda su Twitter, per esempio, ci mette un secondo. Allora, dopo le vostre proteste, dei fondi sono arrivati, però sono, io ho detto, 10 milioni quest'anno, sufficienti per stabilizzare circa 200 precari della ricerca in generale su 10.000 in Italia. Siete soddisfatti a metà, poco, per niente, parzialmente? Qual è il vostro commento? Ma diciamo che soddisfatti no, non è decisamente il termine corretto. Siete scienziati, quindi dateci una percentuale. Esattamente, noi siamo solo al CNR, siamo il 40% della forza precaria, quindi 4.500. Esatto, precari. Su 11.500 dipendenti, 4.500 siamo precari. E quindi dire che lo Stato mette 10 milioni a disposizione per l'anno 2018 per fare le stabilizzazioni per tutti gli enti di ricerca, vuol dire dare la possibilità di assumere in totale 200 persone, ma quindi, solamente noi siamo 2600 aventi diritto. Quindi ci si sente presi in giro. Il CNR, che secondo la rivista scientifica Nature, senti come vado giusto, liscio con la pronuncia, è tra i 200 centri più innovativi al mondo ed è l'unico italiano centro di ricerca inserito in questa... È una notizia bellissima questa ovviamente. È una bella notizia, poi magari ne parliamo anche. Però ecco, questo centro d'eccellenza qua, su 11.500 dipendenti, il 40% sono precari, cioè gente che dalla mattina alla sera non sa cosa gli succederà, e non solo ricercatori, vero Luca? Esattamente, il CNR, essendo composto da 11.500 dipendenti, è una macchina molto grande che dà dei servizi multidisciplinari, e quindi il personale in carico non è solamente il ricercatore o il tecnologo, ma ci sono molti tecnici come il sottoscritto, ma molti amministrativi che sono propedeutici a questa macchina. Dire innanzitutto stabilizzare solo ricercatori e tecnologi è un errore di forma, perché appunto non sono precari solo i ricercatori e tecnologi, ma anche i tecnici e gli amministrativi. Ma poi dire ancora che siamo l'unico ente che risulta su Nature, e dire che siamo il 40% di questo ente precario fa vedere quanto la forza precaria sia importante per il raggiungimento di quello che è l'obiettivo massimo per la pubblica amministrazione d'Italia: essere ai vertici per la ricerca e per l'istruzione nel mondo. Allora, è fondamentale. Sì, posso certo, fare una domanda, nel senso che voi state occupando diversi centri del CNR, state dormendo con il sacco a pelo per esempio nell'aula Fermi del CNR di Roma, tra le provette e i microscopi. Esatto, io forse può sembrare una domanda stupida, ma mi chiedo, degli scienziati nel 2017 non hanno inventato un metodo nuovo, più innovativo delle occupazioni per raggiungere i propri obiettivi? Anche perché se lo trovate fate bingo, eh? Beh, è chiaro, però è storico che alcuni obiettivi si raggiungono con la lotta e non purtroppo spesso con la diplomazia. No, ma lotta, io mi chiedevo se non esistono altri metodi di lotta che non siano solamente l'occupazione, o comunque se invece l'occupazione si scopre, e lo voglio sentire dire da uno scienziato, che è il metodo migliore. Dopo anni e anni abbiamo scoperto che è il metodo migliore. Beh no, il metodo migliore sarebbe sicuramente avere la possibilità di sedersi sui tavoli giusti e contrattare quello che è il giusto per il paese. Però questo è una possibilità che non viene data a molti, e noi che siamo la minoranza in questo paese, perché poi la ricerca passa per essere la minoranza, benché sia in teoria il futuro del paese, non ha voce a quello che è il giusto del paese. Allora, voglio ricordare alcuni passaggi, no? Per fare un po' di chiarezza, diamo un po' i numeri. Allora, sono circa 10.000 ricercatori, correggimi se sbaglio, pubblici, precari in Italia. Di questi 4.500 sono i precari al CNR, ma di questi 10.000 sono 2.600 quelli che i decreti Madia avevano individuato come ricercatori da stabilizzare, cioè per cui bisogna trovare i fondi per stabilizzarli. Poi arriva la manovra di bilancio e i fondi sono 10 milioni quest'anno, 50 l'anno prossimo e 50 ancora l'anno successivo. Quindi in totale, dice il governo, la somma fa circa 2.000 e qualcosa. Però voi, che siete appunto scienziati e siete abituati a fare i conti con i numeri, dite, beh insomma, però c'è qualcosa che non va in questo emendamento. Ci spieghi cosa? Qual è il tranello, no? Beh, diciamo che qui ci sono qualche cosa in più che non va. Diciamo, loro dicono in totale 10-50-50, quindi 110 milioni, dicono 2.100 assunzioni. Sì, ma per tutti. Ripeto, siamo sempre 10.000 per tutti gli FPR, quindi 2.100 è comunque un quinto del valore totale degli enti di ricerca. E poi è un emendamento a cofinanziamento, quindi diciamo, per accedere ad un credito devi comunque di poter dimostrare di mettere anche tu dall'altra parte un'altra parte. Per cui l'ente di ricerca povero che non ha soldi non può accedere a nessun fondo, sostanzialmente. Diciamo che in soldoni può essere questa la sintesi. E poi c'è la questione dello scaglionamento temporale, cioè di questa previsione sul futuro, no? Che sembra come dire, noi stabilizziamo quest'anno con 10 milioni questi 200 precari, poi dagli anni prossimi altri governi toccherà loro, no? È un po' questo. Beh, esatto, hai preso in pieno il punto. hanno fatto un, diciamo, questa previsione dove il primo anno sono 10 milioni e poi 2019-2020 50-50, ma sanno tutti che nel 2018 ci saranno le elezioni e quindi diciamo che questo governo non si è voluto esporre più di quanto avesse potuto eventualmente farlo. Certo, sono fondi stanziati e quindi potrebbero rimanere lì senza problemi, ma la storia ci insegna che quando un governo cambia tutto è fattibile, cambia la musica, è modificabile. Certo. Poi magari ci saranno altre priorità e allora c'è bisogno in quel momento di andare a cercare dei fondi e quindi ci sarà una manina magari l'anno prossimo che fa una manovra di partita di giro. E poi se questi soldi ci sono, perché non fare il contrario? 50 quest'anno, 50 10. Invece no, si comincia con poco e poi la parte grossa si vedrà. E temo che se questi soldi ci sono è il problema di quello che hai appena detto. Luca Mauro, ricercatore del CNR, tu di cosa ti occupi? Dacci, se è possibile, con parole umane, dacci quello di cui ti occupi. No, non è nulla di trascendentale. Mi occupo di ricerca navale, quindi di progettazione di mezzi navali e lo studio della fluidodinamica all'intorno di questo mezzo navale. Quindi facciamo quella che è l'ottimizzazione delle forme di una barca, ma non solo, perché ci occupiamo anche di energie rinnovabili dal mare e facciamo anche progetti di ricerca con enti americani piuttosto che spaziali, aerospaziali, aeronautici. Ti faccio una domanda, visto che giustamente parli di enti americani, perché una delle questioni che si dice spesso, soprattutto dopo anche la notizia che diceva Alessio del fatto di essere entrati come CNR nei primi 200 posti più importanti, e queste invenzioni, ciò che voi scoprite, poi in maggioranza vengono usate da aziende italiane o vengono in realtà messe sul mercato e quindi vengono usate da chiunque? Ma guarda, non c'è una proporzione lineare dove dici sono più extraeuropee che europee che italiane. Noi applichiamo su tutto quello che ci viene sottoposto e quindi ottimizziamo tutto quello che ci viene incontro a livello lavorativo. Diciamo che il panorama extraeuropeo è più attivo a livello di investimento nella ricerca rispetto a quello che è il panorama italiano. Esatto, e ti chiedevo questo esattamente per questo, perché io credo che spesso in Italia è come che non si vedesse l'ultimo passo, ovvero che voi non è che vi occupate di cose astruse che interessano solamente a voi, ma una volta che voi fate le ricerche poi la maggior parte delle volte nascono dei prodotti che finiscono nelle famiglie, che finiscono nelle case, quindi in teoria vediamo con i nostri occhi quello che voi avete trovato o avete ricercato, e quel passaggio lì spesso è un po' mancante, perché se noi ci accorgessimo che un sacco di invenzioni che ci entrano in casa in realtà nascono esattamente dal fatto di avere una buona ricerca, forse si vorrebbe più bene alla ricerca e si vorrebbe ancora più fondi per voi. E che entrano nelle case degli altri, degli extraeuropei. I soldi entrano nelle casse degli altri, perché gli oggetti entrano nelle casse di nelle case di tutti, a giusto? A proposito, vai Luca. No, volevo solamente dire che sì, il discorso è questo. Il problema non è che in Italia non si le industrie non vogliono investire nella ricerca. Investire nella ricerca è comunque un investimento oneroso e spesso l'accesso al credito non è semplice averlo tramite il nostro sistema economico, mentre certo, all'estero è più facile trovare accesso al credito per credere in una invenzione piuttosto che in una ricerca specifica. Quando parlavi delle applicazioni delle vostre ricerche, oltre all'industria navale, che in cui l'Italia insomma ha un suo peso, parlavi anche di energie prodotte dal mare. Mi sembra interessante, quasi una novità. Al momento non sappiamo di pale eoliche, sì, in mezzo al mare o di altre cose. Ci racconti, perché questa potrebbe essere invece una cosa importante, no, per il futuro, visto che si va nella direzione delle energie alternative. Ma sì, esattamente. Come sapete esistono già varie forme di recupero dell'energia tramite il nostro pianeta, che è quella eolica principalmente. Però dal mare si possono addirittura recuperare, si può comunque recuperare energia sia dalle correnti marine, quindi installando delle turbine per esempio sul fondale del mare, che anche per mezzo di boa, perché la boa comunque è in continuo movimento e questo movimento si può tradurre in energia e trasformarla poi in energia elettrica. E noi facciamo questo, studiamo sistemi che poi possano essere riprodotti in grande scala per ricavare energia dal mare e magari alimentare piccole cittadine. Ma lo stiamo facendo? Non ci avevo mai pensato a questa questione della boa, perché effettivamente il mare sposta la boa, se riesce ad attaccarci un modo tipo una dinamo, crea dell'energia. Ma lo stiamo facendo da qualche parte? Già applicata questa cosa da qualche parte? Sì, sì. Soprattutto nei mari del nord ci sono già sistemi complessi, per esempio di boe, ma anche di turbine, che alimentano decine di migliaia di persone. Eccotela lì, però nei mari non potete mettere un milione di boe lontanissimo e così vendere un sacco di energia e stabilizzare tutti i precari? E qui entriamo nel discorso dell'accesso al credito per l'industria. Giustissimo. Luca Mauro, ricercatore del CNR, grazie per essere stato con noi. Ma una curiosità, ma tu sei sempre stato, non hai mai pensato ad andare all'estero? Cioè sei tranquillamente in Italia? Ho avuto delle offerte dall'estero, ho creduto nel sistema italiano, credo tuttora nel sistema italiano. E bisogna vedere se lui crede in te. Ad ottenere un risultato, io credo fermamente che questa lotta che stiamo facendo, avendo occupato le principali sedi italiane del CNR, da Roma a Bologna, a Napoli, a Bari, a Palermo, a Milano, ci porterà qualche cosa di buono, di questo ne sono certo. Va bene, lo speriamo anche noi. Ministri, governi, presidenti uniti e anche disuniti, se siete all'ascolto, fate qualcosa, fate qualcosina di più. La manovra non è ancora stata approvata, fate qualcosina di più. Per esempio basterebbe invertire queste cifre, 50 milioni adesso anziché 50 l'anno prossimo e 10 quest'anno, perché sennò sembra il gioco delle tre carte. Beh, però se ne metti 50 quest'anno, l'anno prossimo ne metti 10, poi dopo... Beh, però almeno abbiamo la certezza... 1000 li mandi a casa però l'anno dopo, perché in realtà i 50, anche in questo, se ne dai 50 e continui a dare 50, quei 1000 che hai stabilizzato sono sempre gli stessi 1000, perché o licenzi 1000 dall'anno prima, oppure non capisco da dove prendano i soldi. No, ma lì c'è tutto il discorso dei finanziamenti, delle partite di giro che poi diventano voci di spesa fisse, continue, quindi la stabilizzazione prevede una stabilità per il futuro. Il punto è stabilizzarli il più possibile adesso e non rimandare al futuro. 800 24 00 24. Se voi stessi siete ricercatori, avete parenti che lavorano nella ricerca italiana, figli, amici, cugini, parenti, 800 24 00 24. Ma soprattutto se volete motivarci sul vivere in famiglie numerose nella settimana in cui l'Istat invece ci ricorda che non facciamo più figli, 800 24 00 24. Siamo qua. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ma anche 349-238-6666, ma anche si può fare at radio24.it, la mail, ma come andiamo ancora? Sì, beh, certo, la mail, poi i nostri social, ci scrivono tantissimi, giustamente. E a tutti quelli che ci scrivono, devo dire, guardate, abbiate pazienza perché rispondiamo piano piano, con calma, perché le forze in campo sono quelle che sono, però piano piano le mail le scorriamo tutte e rispondiamo, perché ci arrivano un sacco di si può fare, di proposte, anche sui social. Esatto, si può fare 24 è il nostro Twitter, si e può si fare può Radio fare 24. Trattino Radio 24 è nostro Facebook, giusto? Poi ci sono i nostri, I account nostri personali, il tuo, mio, che sei chiocciola una Twitch star. Carlo Gabardini, oppure su Facebook Carlo Giuseppe Gabardini, e il tuo Alessio? Chiocciola Ale Maurizzi. Magnifico. Allora. Poi c'ho anche Snapchat che ti preoccupa, che però non lo sto usando Snapchat. Più, e poi c'è Instagram invece, che dove sono sempre Carlo Gabardini. Snapchat fa paura, ragazzi. Marco da Napoli, buongiorno, benvenuto. No. Buongiorno. Mi trattengo dai complimenti. Oggi la mia giornata inizia con un'ottima notizia, quella di avere contatto con voi. Oh, ma anche, anche e noi, noi ne siamo contenti. Anche Radio a me. 24 è la mia radio dalle 7:15 la mattina fino alle 11. Perché le 7:15? Che succede alle 7:15? Perché a quell'ora mi preparo. Prendi contatto col mondo, giusto? Il giusto. Contatto sì, siete bravissimi tutti. Bene. Dunque le spiego in parole povere sulla questione come si dice, la ricerca. Sì, sì. Ho una figlia che ha studiato, al triennale biotecnologie mediche. Però ha iniziato subito a collaborare col TGEM, che è un grande Teleton, una grande istituto di ricerca genetica. Sì. Ha fatto, completato i 5 anni. Ha fatto il dottorato di ricerca con l'università Federico II, pure, sempre col TGEM. Pure, poi? Ha completamente di tutto, fa il vigile. Sì. Ed è contenta? No, un momento. Lei è contenta, però dici mi piace lo stipendio. Beh, questa è una bella motivazione. Marco, a Napoli fa il vigile? A Napoli fa Casoria, fa il vigile. Tra l'altro... E lei comunque in questo momento sta prendendo, sempre con l'Università Federico II, il 15 dicembre farà un esame sul master genetica forense. Cioè sta comunque provando a portare avanti questa carriera, non ha mollato, non ha mollato. Non solo, ma il sabato e la domenica, quando è di festa, va a collaborare con un volontario al Policlinico di Napoli. Vabbè, ma tua figlia, quindi, Marco, è straordinaria. Si chiama questa ragazza? Vogliamo salutarla. Imma, grandissima Imma, perché comunque ce l'ha messa tutta, si dà da fare e sicuramente riuscirà a fare anche di più di quello che sta facendo adesso. Adesso cioè, chiameranno gli ascoltatori che hanno preso la multa da Imma e scopriremo anche un lato più oscuro, cattivo. Temo di sì. Salvatore da Olbia. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Che si dice? Bene. Tutto bene, lì? Lì? Il tempo è... nuvoloso, piovigina, ma niente freddo, 10 gradi, quindi tranquilli. Noi è un po' che non facciamo Milano-Monterosa, Carlo? È vero. C'è un piovischio che potrebbe quasi essere un inizio di neve, ma capiremo. Vai Salvatore, cosa ci volevi dire? Niente, provengo da una famiglia di... Mio papà erano 12 figli e io sono riuscito a farne solo 6, mi sento un po' in difetto. Ma che bravo, che bello, cioè eravate 12, tu hai fatti solo 6 e ti sei... Ecco l'applauso, in effetti è straordinario. Perché, beh, certo, prendo una famiglia di 12, farne 6, uno dice, cavolo, potevo impegnarmi un po' di più. Mi ha sempre detto, se farai la metà di quello che ho fatto io, sarai un grande. Ah, perfetto! Mi sento un po' un grande, però... Beh, mutatis mutandis, si dice così? No, come si dice? Sì, è vero. Dipende quello che vuoi dire, Alessio. Cosa voglio dire? Cambiati i tempi, cambiate le circostanze, sei figli, hai fatto secondo me quanto hanno fatto i tuoi. Tu quanti anni hai, Salvatore? Posso chiedere? Io ne ho 51 adesso, ma il più piccolo. Ma sei giovane. Ha 2 anni, quindi ne ho... Ah, però, piccolini? Sì, 12, 10, 8, 6, 4 e 2. Magnifico. La cosa e quindi ci bella. Aspettiamo che poi loro ne faranno ognuno 3, direi a questo punto. Senti, intanto avete tutti un tono di voce allegro, di quelli che chiamano che sono in tanti figli, perché questa è una costante. Qual è la cosa più bella di vivere con tanti figli, Salvatore? Sedersi a tavola e vederli mangiare. Tutti allegri che mettono le mani nel piatto, chissà che casino, quello di 2 anni che butta roba ovunque. 2 chili di ravioli quando faccio da mangiare. 2 chili ci vuole un pentolone. Porca miseria. Va bene, Salvatore. Veniamo a trovarti. Grazie. Dove si mangia in 10, si mangerà anche in 11, giusto? E a me non mi porti, 12 facciamo. Ciao, grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, sapete che a noi ci piace stare sul filo del cambiamento, dell'innovazione, che speriamo sempre sia un'innovazione in meglio, un si può fare positivo. Allora, la notizia da cui partiamo è questa: è crollato negli ultimi 10 anni il tasso di motorizzazione in Italia. Allora, si passa dal 53% al 37%. Se sia una buona notizia, possiamo provare a capirlo, ma insomma, se meno... Anche perché in realtà il mercato dell'auto l'auto però non è stato intaccato, perché ultimamente in ripresa, è in crescita da 10 anni. È vero, ma insomma, se è meno 5. Motorizzazione vuol dire meno ingorghi, meno smog, persone, cittadini più in salute, in bicicletta e più felici, perché la bicicletta fa anche questo effetto, noi siamo contenti. Felici saranno sicuramente i dipendenti della Logos di Modena, che hanno ricevuto in regalo una bici elettrica dal datore di lavoro Marcos Vergara, che è qua con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, benvenuti a voi. Buongiorno. Beh, sicuramente un ciclista felice è un ciclista a cui viene regalata una meravigliosa bici elettrica, fra l'altro del valore di mercato non da sottovalutare, cioè avete fatto uno sforzo anche economico. Sì, in realtà a noi piace pensare che abbiamo semplicemente ridistribuito una parte della ricchezza che gli stessi collaboratori hanno aiutato a costruire. Ma che bello, certo, così è facile, però stupendo, però mica giusto, tutti fanno giusto, come lei, giusto. Marcos, cioè non è che tutte le aziende fanno questo ragionamento. In un periodo di crisi come questo noi stiamo andando principalmente bene perché abbiamo degli ottimi collaboratori. Bravo, complimenti di nuovo. Di cosa vi occupate però, così giusto per dire? Di traduzioni. Noi facciamo traduzioni e editoria. Più o meno operiamo nel settore da una circa un 40 d'anni, e il settore trainante sono le traduzioni, e i nostri collaboratori più o meno gestiscono problemi. Tutto quello che ne rende la traduzione, dalla grafica alla traduzione in multilingue. Molto bene, molto bene. E come mai avete deciso questa originale politica di benefit aziendale, questo cadeau, questo gentile cadeau? Io ho comprato due biciclette elettriche, una per me e una per la mia compagna, per andare in ufficio al lavoro. Abitiamo molto molto vicino, abitiamo 3 chilometri. Mm-hmm. Niente di che. Hai voluto provare la... Vabbè, 3 chilometri sono sempre 3 chilometri comunque a fare in bici. Sì, sì. Ci sono delle salite, Ci sono delle salite? No. Siamo in pianura padana noi, quindi non ci sono salite di questo tipo qua. Poi hai voluto provare la bici elettrica. Parlando con la gente, dicevo che era una cosa carina, perché era divertente, anche perché le prime volte che non l'ho... Mentre da due pedalate riceve una spinta, sembra quasi un perché motivo. In realtà sono assistite, giusto? Cioè la cosiddetta pedalata assistita. Pedalata assistita, sì, uno deve, per far andare il motore, uno deve continuamente pedalare. Quindi non è un motorino. Non è un motorino, però ti dà la sensazione come di un motorino. Il problema più grosso che abbiamo riscontrato è che comunque costavano care. Tipo? Quanto? Una bicicletta pedalata assistita va dai 450 ai 1000 qualcosa. Ah, però! Quindi non tutti possono permettersela. No, assolutamente, o quantomeno se la possono permettere, però incide molto su un budget familiare. Certo. Allora, rimuginando un po' tra di noi, abbiamo detto, ma perché no? Compriamo una bicicletta noi, così non hanno più problemi. Le abbiamo comprate in centro, le abbiamo fatte in sordina, le abbiamo fatte arrivare, ero la sorpresa. Ma è come la vedete? Ma assumeteli alla Logos, perché io le mando il curriculum. Sì, stiamo sempre cercando nuove persone. Ma come l'avete fatta la sorpresa? Cioè avete messo 100 biciclette sotto un tappeto, sotto un telo, poi avete fatto così come si fa con le statue. Avete presente come fanno le ditte che col favore delle notte o nel fine settimana smontano tutto per portare la produzione, certo, in Polonia? Certo, ne abbiamo parlato spesso. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, facendo arrivare i pallet all'interno della ditta, e li abbiamo montati scegliendo un paio di collaboratori che un po' più bravi con le mani, li abbiamo montati di sorpresa, poi un giorno li ho portati tutti giù e abbiamo messo le biciclette in fila e gli ho detto che gli regalavamo una bicicletta. Immagino la scena di giubilo, tutti, sì, perché sarà stato un bel sì, momento. Alcuni erano contenti, molti pensavano che scherzassimo. e molti hanno detto, adesso ci tocca anche pedalare per venire a lavorare. Sì, le battute si sono sprecate, certo. Un gruppo di amici. Senti, ma come si ricarica la bici elettrica, Marcos? Non ho capito la domanda. Come si ricarica la bici? Si ricarica da sola o bisogna attaccarla da qualche parte? No, la bicicletta si attacca tramite un trasformatore alla parete, e ricarica la batteria. La batteria, questo modello qui, fa 70 km di autonomia. Quanto ha di autonomia? 70. 70 km. 70 Beh, km. Non è male, non è male. E l'attaccano in azienda la bici? L'attaccano in azienda, sì. Le ciucciano anche l'energia, quindi? Sì, abbiamo dei capannoni per la parte editoriale, una zona dei capannoni abbiamo allestito con delle rastrelliere e delle prese elettriche. Mamma mia, perfetto. Ma c'è l'obbligo di utilizzarle oppure lasciate liberi i vostri dipendenti? No, le biciclette noi le abbiamo regalate, e loro possono fare quello che vogliono. Possono anche rivenderla? possono anche rivenderla se vogliono, spero che non lo facciano ovviamente, però se vogliono rivenderla possono fare. È un regalo, come quando lei regala un regalo a qualcuno. Certo, ma non credo che la rivenderanno, non credo proprio. Per Natale dopo, chi lo sa. Va bene, grazie, complimenti. Grazie, bellissima iniziativa, speriamo che ci siano altri che la imiteranno. La Logos di Modena, vedi, biciclette elettriche in regalo ai dipendenti. Logos. Le parole sono importanti. Giuseppe da Modena per chiudere la puntata di oggi, vai Giuseppe. Salve, ciao, buongiorno a tutti. Grazie, buongiorno anche a te, vai. Allora, io intervenivo per decantare i vantaggi delle famiglie numerose. Sì. Decanter? Diciamo che possiamo sintetizzarli in tre. Numero uno, ci si scalda molto facilmente. È chiaro. Numero due, non c'è bisogno della televisione per sentire rumore. Fantastico. Il numero 3, si agevola la circolazione monetaria perché alla fine della giornata non c'è più soldi in tasca. Si fa girare anche l'economia, anche troppo, gira la testa. Giuseppe, grazie anche per, grazie della testimonianza, per la tua testimonianza ironica che ci voleva. Comunque, a questo punto chi facciamo vincere? Il cervellone della redazione, diciamo domani, o facciamo vincere... cosa vuol dire questo gesto? 11 figli, Massimo da Roma. Massimo. Ma sì, ma visto che siete tanti con famiglie numerose, vediamo se i biglietti della vostra di Clint, vediamo di